America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, buon anno, continuo ad augurarvi il buon anno, siamo nella prima settimana di gennaio e in questo caso buon anno che vi auguro un buon anno, diciamo, economico, perché voglio dedicare la puntata di oggi all'economia, alle prospettive dell'economia con Donald Trump. Ma partiamo da una notizia di una decina di giorni fa, sentiamo. The US Commerce Department says GDP increased at a 3.5% annual rate during the three months to September. Ecco, avete sentito? Newscast che dava l'annuncio che il PIL americano per il terzo trimestre, l'ultima lettura del PIL americano per il terzo trimestre, era stata aumentata a un tasso di crescita del 3,5%. Ecco, direi che è un tasso piuttosto elevato per le medie che abbiamo visto negli ultimi anni. Infatti una delle accuse che Donald Trump portava a Barack Obama era quella di non aver consentito all'economia di crescere al pieno del suo potenziale. Dice, questa è un'economia che può crescere al 5, al 6%, sicuramente al 4, invece siamo stati mediamente attorno al 2, 2,5, 1,8, 1,9, insomma, a tassi piuttosto bassi. Ecco, l'idea in realtà è che usciti dalla crisi del 2007-2009, beh, sarebbe stato complicato riportarsi su tassi di crescita molto elevati. E l'economista Larry Summers aveva identificato un periodo di stagnazione secolare in cui una serie di aggiustamenti che in altri tempi avvenivano in modo più rapido in realtà non si verificavano e dunque l'economia sarebbe cresciuta per parecchi anni su livelli inferiori e più contenuti rispetto al passato. Questa tesi più o meno è stata accolta. In effetti abbiamo visto che l'economia è cresciuta, ma è cresciuta a tassi medi più vicini al 2% che al 3%. L'occupazione si è ripresa, ma i salari hanno faticato a tornare a livelli reali che consentissero di avere un potere d'acquisto adeguato e dunque abbiamo osservato la crisi della classe media che poi ha portato anche a delle conseguenze politiche. Donald Trump, fra una quindicina di giorni, diventerà presidente degli Stati Uniti, ha già detto che cosa vuol fare sull'economia. Sentiamolo. That's why I believe it's time to establish a national goal of reaching 4% economic growth. And my great economists don't want me to say this, but I think we can do better. Ecco, avete sentito, Donald Trump promette tassi di crescita straordinariamente forti, addirittura dice potremmo anche toccare il 5, il 6%, promette soprattutto tagli fiscali. Ecco, la sua è un'operazione non diversa da quella che fece Ronald Reagan, vuole diminuire le aliquote, vuole creare soltanto 3 aliquote e diminuire la tassa, diciamo, sui redditi fino a $75,000 al 12%, fra i 75.000 e i 225.000 al 25%, oltre i 225.000 un'aliquota fissa del 33%, l'attuale aliquota più elevata è del 40%. Vuole ridurre dal 33 al 10% la tassa sul rimpatrio degli utili delle aziende americane che tengono parcheggiati i profitti all'estero. Qui parliamo di un rimpatrio di migliaia di miliardi di dollari che dovrebbe portare liquidità pronta per essere investita. C'è un progetto per ridurre dal 35 al 15% le tasse sui profitti aziendali e c'è un progetto per investimenti infrastrutturali da 1.000 miliardi di dollari con l'idea di creare una banca per le infrastrutture, con l'idea di coinvolgere i privati negli investimenti infrastrutturali e di concedere una deduzione fiscale dell'82% sugli investimenti di questi privati. L'idea di coinvolgere i privati, dice Trump, consentirà di mettere in moto un meccanismo virtuoso che riporterà l'America, come l'abbiamo sentito 1.000 volte in campagna elettorale, alla sua grandezza. Ecco, questo è il grande punto interrogativo. I mercati, insomma, in qualche modo ci hanno creduto perché sono andati in una corsa al rialzo piuttosto forte, ma il grande punto di domanda è: ci riuscirà? Ecco, di questo parliamo con Luigi Zingales. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Eccoci, Luigi Zingales, professore di economia alla Chicago University, editorialista del Sole 24 Ore, spesso ospite qui con me ai microfoni di America 24. Allora, Luigi, cosa ne dici? Donald Trump avrà la bacchetta magica per smentire Larry Summers? La risposta più facile è no, ovviamente non ha la bacchetta magica. Quello che fa è copiare dalla standard economia keynesiana, che tra l'altro piace molto a Larry Summers, quindi un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle imposte non fanno altro che aumentare la domanda aggregata, e quindi nel breve periodo sicuramente ci sarà un aumento del reddito. Ora, se questo aumento del reddito poi resiste nel lungo periodo e più che compensa le perdite fiscali, questo rimane da vedere e dubito. Quello che è preoccupante è che nel mondo, ma anche negli Stati Uniti in particolare, la produttività, cioè la crescita del prodotto per ora lavorata, è molto più bassa negli ultimi anni di quella che è stata storicamente. Questa è la fonte che ha portato al progresso. Se questa non riprende, abbiamo un problema tutti, abbiamo un problema per gli standard di vita, abbiamo un problema a pagare le pensioni, abbiamo un problema a sostenere il debito, abbiamo un problema di tutto e di più. E non mi sembra che nessuna delle proposte di Donald Trump vada veramente a colpire potenziali cause di questa riduzione. Prima di tutto c'è un dibattito su qual è la causa di questa stagnazione, se addirittura c'è questa stagnazione secolare o questa riduzione dell'aumento della produttività. Anche che ci sia, poi dopo come risolverlo rimane da vedere. Ecco, Luigi, hai toccato uno dei temi centrali, perché si dibatte molto proprio sulla produttività e in particolare sul fatto che l'innovazione tecnologica, più che il commercio, la liberalizzazione dei commerci, stanno creando dei problemi sui posti di lavoro americani. Com'è possibile rispondere a questo problema? Perché nel corso delle rivoluzioni industriali c'è sempre stata una compensazione. Ecco, questo sembra non accadere. Secondo te è un problema irrisolubile, risolubile? Beh, innanzitutto è molto facile ex post dire ma allora era più semplice. Il punto, se vuoi, importante, non risolto, è come mai storicamente, se non nel breve periodo, almeno nel lungo periodo, c'è stato un aggiustamento, cioè quando l'agricoltura è diventata molto più produttiva la gente si è spostata nella manifattura, quando la manifattura è diventata più produttiva la gente si è spostata nei servizi. La domanda è un po' più complessa, abbiamo una forza lavoro in grado di abbracciare i nuovi posti di lavoro che saranno creati? Per certi lavori, per certi servizi, la preparazione, la cultura necessaria sono molto molto più elevate di quelle dei lavori precedenti. Quindi questa transizione è tutt'altro che facile. Infatti, ecco, c'è qualcuno che cerca di dare una soluzione. Beh, dal punto di vista teorico, di nuovo riparte dal centro studio di John Podesta, ci ha lavorato anche Larry Summers, cioè quella teoria che chiamiamo dell'inclusive capitalism, cioè del capitalismo inclusivo, cioè dobbiamo restare su un modello capitalistico che da molte parti è sotto accusa, ma dobbiamo migliorarlo e renderlo appunto più inclusivo per rispondere a queste difficoltà della classe media. Come? Con tre elementi chiave: puntare sulla education, agendo sui salari, i salari devono aumentare, in questo modo la gente ha più potere d'acquisto, e investendo in risorse sostenibili, quindi nell'ambiente e in tutto quello che è il non profit, cioè cercare di sviluppare dei nuovi settori, una nuova rivoluzione industriale, per esempio puntando sull'ambiente. Ecco, secondo te questa può essere una strada, può essere un percorso, oppure si finisce per fare dei ragionamenti molto teorici e la risposta ce la darà il mercato? Secondo me ci sono degli elementi giusti in queste proposte, si svegliano un po' tardi, adesso non voglio dire io l'avevo detto, però nel libro che scrissi 4 anni fa molte di queste cose le avevo dette e avevo anche indicato quali erano gli ostacoli. Ad esempio, è inutile che parliamo di miglior capitale umano, uno dei ostacoli maggiori a una migliore scuola negli Stati Uniti è il sindacato degli insegnanti. Quindi se uno vuole cambiare quel problema deve incidere da quel punto di vista. Poi dopo non possiamo dire paghiamo salari più alti, perché siamo in un'economia di mercato, se uno vuole fare il sistema capitalista questo non lo può fare, però quello che possiamo dire è riduciamo il potere di mercato delle imprese. In un sistema capitalista può esistere un antitrust che è più aggressiva nel ridurre vantaggi monopolistici di alcune imprese, questo riduce i prezzi e aumenta i salari reali. Sicuramente ci sono spazi di cambiamento, non vedo ancora un partito democratico né tantomeno un partito repubblicano che hanno abbracciato questi spazi e che ne facciano delle proposte concrete. Bene Luigi, per chiudere, a questo punto siamo vicini all'inauguration. Tu credi che Trump partirà in quarta o in quinta ormai per concretizzare questo suo programma elettorale? Non avrà problemi in congresso, ma i repubblicani in fondo sono contrari a certe misure che lui propone. Riuscirà a farlo lo stesso? Ma nel breve periodo sì, è difficile che un congresso si metta contro un presidente vincente del suo stesso partito nei primi 100 giorni. Poi si vedrà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Luigi Zingales, sempre con me, microfono America 24. Luigi, siamo nella prima settimana dell'anno, stiamo augurando il buon anno ai nostri ascoltatori. Cosa vuoi proporre come canzone del giorno? In onore al presidente Obama che se ne va, vorrei scegliere Only You dei Platters. Dei Platters, dedicata a Barack Obama, Only You. Only Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!